Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 26 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è branzino al forno con agrumi. Ingredienti per 4 persone. 2 branzini più o meno di 800 grammi. 5 aranci. 5 limoni. Rosmarino. Timo. Maggiorana. 200 ml di vino bianco, olio extravergine, sale. Preparazione. Spremere gli agrumi. 4 arance in un bicchiere e un'arancia in un bicchiere separato. Fate lo stesso anche con i limoni. Nella pancia di ciascun branzino mettere una presa di sale, un rametto di rosmarino, un po' di timo e di maggiorana. Sistemarli in un'ampia teglia e annaffiare con il succo degli agrumi. Aggiungere poi l'olio extravergine. Mettere a cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. A metà cottura sfumare con il vino bianco. Sfornati i branzini, trasferire il fondo di cottura nel bicchiere del mixer. Aggiungere il restante del succo degli agrumi, qualche foglia di timo e qualcuna di maggiorana. Poi emulsionare. A questo punto sfilettare i pesci, cercando di privarli di lische. Togliere ovviamente anche la pelle. Sistemare i filetti su un piatto di portata e aggiungere l'emulsione agli agrumi. Servire subito in tavola. Buon appetito! Il vino consigliato è Sauvignon Blanc del Sud Tirol, gradazione alcolica 14, temperatura di servizio 10 gradi centigradi. Questa era la ricetta numero 26 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima sempre qui a Radio Big World.